Le città dell'America spagnola, separate da immense distese di territorio incolto e disabitato, hanno ancora pochi interessi in comune. Sarebbe stato urgente dotarle sin dall'inizio di un'organizzazione municipale proporzionata allo sviluppo culturale degli abitanti, suscettibile di progredire con loro, per riunirle poi in una federazione che fosse l'espressione dei rapporti esistenti fra i vari centri abitati. Ma per affrancarsi dalla Spagna è stato necessario mettere in piedi degli eserciti e, come succede sempre, la forza della spada alla fine ha prevalso. Se le popolazioni vivessero più vicine, sarebbero più unite nelle aspirazioni e non ci sarebbe lo spettacolo dei continui conflitti che seguitano a rinascere da più di 20 anni. La vicenda dell'indipendenza ha tradito tutte le previsioni. L'Inghilterra ha speso somme enormi per sostenerla e quando l'America del Sud è diventata indipendente, il sentimento sfruttato per spingere la popolazione a scrollarsi di dosso il giogo spagnolo non è stato il desiderio della libertà politica, di cui la gente non sentiva ancora il bisogno, né quello dell'autonomia commerciale, di cui le masse non potrebbero godere perché sono troppo povere. Si è giocato invece sull'odio contro gli spagnoli, alimentato dai privilegi di cui erano detentori. Vedendo i prodigi che la libertà ha generato nell'America del Nord, ci si stupisce di vedere quella del Sud restare in preda ai tumulti politici, alle guerre civili, e non si fa abbastanza attenzione alla diversità del clima e alle differenze morali tra i due popoli. Nell'America del Sud i bisogni sono più limitati e facili da soddisfare. Le ricchezze sono ancora distribuite in modo ineguale. E l'accattonaggio, compagno inseparabile del cattolicesimo spagnolo, è quasi un mestiere. Prima dell'indipendenza, in Perù, c'erano immense ricchezze realizzate nel pubblico impiego, nel commercio, in particolare in quello illecito, e nello sfruttamento delle miniere. Solo un piccolo numero di queste fortune aveva origine dalla coltivazione della terra. La massa della popolazione era coperta di stracci e da allora il suo destino non è migliorato. Nell'America inglese, invece, gli usi e costumi si sono formati in un clima liberale, sia in politica che in religione. Le popolazioni abitavano vicine e, vivendo in un clima difficile, avevano conservato le abitudini di lavoro dell'Europa. Inoltre, la ricchezza acquisita attraverso la coltivazione della terra e il commercio regolare era distribuita in modo abbastanza equo. Si rimane sorpresi dal fatto che le persone ricche non abbiano lasciato l'America del Sud nel momento in cui se n'è andato il governo spagnolo, come avrebbe suggerito la prudenza, dato che era evidente che esse sarebbero state vittime di tutti i disordini. Le loro ricchezze hanno alimentato le guerre, che non cesseranno fino a quando non ci saranno più proprietà da cui trarre profitto. Lo sfruttamento delle miniere diminuisce ogni giorno e molte di esse, a causa della guerra, sono state allagate. Quando sarà ristabilita la pace, gli abitanti saranno costretti a dedicarsi quasi esclusivamente all'agricoltura e questo lavoro portatore di civiltà farà nascere gradualmente delle idee di ordine e di libertà razionale. Quando ad Arequipa è giunta la notizia degli avvenimenti di Lima, gli uomini che hanno fatto schierare la città dalla parte di Orbegoso non erano mossi dall'amore per il bene pubblico né da un'opinione migliore di questo presidente rispetto agli avversari. Essi hanno visto semplicemente un'occasione per impadronirsi del potere e arrivare alla ricchezza. E si sono affrettati ad approfittarne. Valdivia, che esercitava una grande influenza sul generale Nieto, lo ha spinto a impadronirsi del comando militare di tutto il dipartimento. Lui stesso, sotto gli auspici del generale, si è messo alla testa del governo civile e ha distribuito tutti gli impieghi ai suoi fautori. Sono stati questi due uomini, o meglio, Valdivia da solo, a condurre tutti gli affari per 3 mesi fino a quando è arrivato San Román. Come mi aveva annunciato Althaus, Valdivia ha fatto apparire il suo secondo bando un mese dopo il primo e questa volta lo zio Pio è stato tassato per 6.000 piastre. Ha protestato, ma ha dovuto pagare il giorno stesso perché nel bando c'era scritto che i ritardatari sarebbero stati portati in prigione. Il vescovo è stato tassato per 30.000 piastre, suo fratello per 6.000, come pure sua sorella. Ugarte è tassato per 10.000 piastre, ha avuto degli accessi di follia e sua moglie è stata costretta a portarlo in campagna. Il povero Gamio ha rischiato di morire. Una delle mie cugine di nome Gutierrez è stata la sola a mostrare del carattere, si è intestardita a non pagare e non c'è stato verso di costringerla. In città l'esasperazione era tale che Nieto non osava più uscire in strada e l'audace Valdivia, che da tempo si vestiva quasi sempre in borghese, ha giudicato prudente riprendere il saio. L'abito da monaco conserva una certa influenza sugli strati inferiori della popolazione e sui proprietari, mitigandone il risentimento. Valdivia non si preoccupava molto dopo il prelievo del secondo contributo, che è stato impiegato male quanto il primo, egli ha fatto requisire i cavalli, le giumente, i muli e alla fine anche gli asini. E quando le estorsioni hanno estenuato gli sfortunati Arechipegni, che le hanno sopportate brontolando ma senza ribellarsi, c'è stata la chiamata alle armi ordinata da Nieto, che ha portato al culmine il dolore e l'indignazione. Il popolo peruviano è antimilitarista e tutti abborrono la condizione di soldato. L'indio, poi, preferisce uccidersi piuttosto che arruolarsi nell'esercito. Gli Arechipegni hanno rifiutato di obbedire all'appello del generale, allora Valdivia ha ricorso alla persuasione. In una serie di articoli sul giornale, egli ha saputo abilmente stimolare il loro orgoglio e i giovani si sono arruolati volontariamente. L'abile monaco, sfruttando la loro vanità e ignoranza, li paragonava agli Spartani, ai Romani e perfino agli immortali della Parigi del 1830. Ho deciso di entrare anch'io nella vita pubblica. Dopo essere stata vittima della società e dei suoi pregiudizi, voglio cercare di sfruttarla a mia volta, vivere una vita come quella degli altri, diventare avida, ambiziosa e impietosa come loro, fare di me stessa il centro delle mie azioni e non essere fermata da alcuno scrupolo. E dato che mi trovavo in una società in rivolta, dovevo vedere con quale mezzo avrei potuto giocare un ruolo e di quali strumenti avrei potuto servirmi. A quel tempo, pur senza seguire il cattolicesimo, credevo nell'esistenza del male. I miei occhi non si erano ancora aperti e non avevo ancora capito l'onnipotenza e l'amore infinito di Dio per gli esseri da Lui creati. Non vedevo che la sofferenza e la gioia sono due modi di esistere inseparabili, che l'una porta inevitabilmente con sé anche l'altra, ed entrambe fanno progredire tutti gli esseri attraverso diverse fasi di sviluppo in qualità di strumenti ciechi della provvidenza. Tutti hanno la loro missione da compiere e non possiamo supporre che se ne allontanino senza sminuire la potenza divina. Pensavo che dipendesse dalla nostra volontà il forgiarci per ogni tipo di ruolo, ma fino ad allora avevo sentito solo gli appelli del cuore, l'ambizione e la cupidigia e le altre passioni fittizie. Apparivano al mio spirito come i fermenti di cervelli malati. Quando la misura è stata colma, mi sono messa in aperta rivolta contro un ordine di cose che sanzionava la schiavitù del sesso debole e la spoliazione degli orfani di cui io ero vittima. Mi sono ripromessa di entrare negli intrighi dell'ambizione, di rivaleggiare con il monaco in audacia e astuzia e di essere come lui, perseverante e senza pietà. Da quel momento nella mia anima è entrato l'inferno che si incontra sempre quando si devia dalla via tracciata dalla provvidenza. Noi cerchiamo invano di cambiare la nostra natura. Credo che poche persone potrebbero manifestare una volontà più forte di quella che il divino mi ha dato, tuttavia, pur avendo la ferma intenzione di indurirmi, di diventare ambiziosa, non vi sono riuscita. Ho concentrato la mia attenzione su Valdivia, l'ho studiato, ho compreso il suo ardente desiderio di dominazione, il suo odio per il vescovo, ma non sono riuscita a far penetrare dentro di me alcuno dei suoi sentimenti. Sentivo che l'esistenza del monaco non mi sarebbe stata confacente. Ho provato anche a mettermi al posto di Althaus. E mi sono resa conto che le forti emozioni dietro le quali correva mi avrebbero causato degli orribili patimenti. Quanto a mio zio, non sono riuscita a capire che piacere provasse a consumare la propria vita in intrighi oscuri e miserabili piccolezze. Non avevo tuttavia rinunciato al mio disegno di entrare nel movimento politico e di giocarvi un ruolo importante. A darmi coraggio avevo sotto gli occhi l'esempio della signora Gamarra, che era diventata l'arbitro della Repubblica e dirigeva tutti gli affari, comandando anche l'esercito. Dietro alle figure e ai nomi di Bermudez e Orbegoso, ella portava avanti la sua battaglia contro il monaco Valdivia. Bisognava destituire quest'ultimo e riunire attorno a me i partigiani di Orbegoso. Un simile progetto si poteva realizzare solo con la forza della spada. Mi dolevo di essere costretta a ricorrere all'appoggio altrui quando mi sentivo capace di agire da sola. Tuttavia, Dovevo trovare un militare che per l'energia del carattere e l'influenza sui soldati fosse in grado di assecondarmi. Dovevo ispirargli amore, spronare la sua ambizione e servirmene per la mia impresa. Perciò mi sono messa seriamente a esaminare gli ufficiali che venivano a trovare mio zio e quelli con cui parlavo da Althaus, ma non ero riuscita a soffocare il mio essere al punto di impedire ai miei buoni principi di ergersi contro la carriera nella quale mi ostinavo a volermi lanciare. Quando ero sola, venivo assalita da sinistre riflessioni. Immaginavo le vittime che bisognava immolare per arrivare ad impadronirsi del potere e per conservarlo. Cercavo di illudermi con i bei progetti di felicità collettiva su cui costruivo la mia chimera, ma inutilmente. Vedevo gli avi dei miei avversari sgozzati levarsi contro di me e il mio cuore di donna si gonfiava, i capelli si rizzavano sulla testa e i rimorsi mi torturavano prima del tempo. Quando non sapevo come fare per sfuggire al tormento che mi agitava e ai fastidi delle conversazioni politiche, andavo a cercare mia cugina Carmen e la pregavo di venire con me a fare un giro fuori città. Carmen era di una gentilezza inesauribile nei miei confronti, di questo le sarò sempre riconoscente, e cedeva a tutte le mie richieste, anche se per lei era un compito ingrato. Ad Arequipa non vi sono strade per passeggiare e le donne non hanno l'abitudine di uscire. L'attenzione che hanno per i propri piedi contribuisce a renderle sedentarie perché camminando esse temono di farli ingrossare. Le nostre passeggiate preferite erano al mulino sul fiume, nel quale qualche volta entravamo. Mi piaceva esaminare quell'edificio rustico, che nel suo insieme non è a livello dei nostri. Altre volte entravamo a vedere la macina del cioccolato situata accanto a quella della farina. Vi ritrovavo con piacere i progressi della civiltà. Vi si macinava il cacao, si sminuzzava lo zucchero, poi si mescolavano entrambi per fare la cioccolata. Il proprietario mi dimostrava molta considerazione per l'interesse che manifestavo con le mie domande sul macchinario e per l'attenzione che prestavo alle sue spiegazioni. Uscivo sempre di là con una piccola provvista di ottimo cacao e con un magnifico bouquet che dovevo alla sua galanteria. Quando il livello del fiume era basso, lo attraversavamo saltando da una pietra all'altra o ci facevamo portare a spalle dalle nere. Poi ci arrampicavamo sulla collina che domina la valle di Arequipa, ai piedi della quale scorre il fiume. Arrivate in cima, ci sedevamo con le gambe incrociate secondo l'uso del paese. Provavo un piacere incredibile a restare così per ore intere, immersa in dolci fantasie o chiacchierando con Carmen mentre lei fumava il suo sigaro. Nel corso delle nostre conversazioni, Carmen mi parlava delle disgrazie del suo paese e la mia amarezza raddoppiava. Per me era evidente che se una persona di animo forte e generoso fosse riuscita a impadronirsi del potere, le disgrazie avrebbero avuto un termine e questa contrada sfortunata avrebbe avuto un avvenire di prosperità. Pensavo a tutto il bene che avrei potuto fare se fossi stata al posto della signora Gamarra ed ero più che mai decisa a cercare di conquistarlo. Fra i militari che venivano a casa dello zio e di Althaus, ne avevo incontrato uno solo che avrebbe potuto rispondere alle mie aspettative. Era quello che mi causava più ripugnanza, ma ero talmente pervasa dall'importanza del ruolo che avrei dovuto ricoprire che non avrei esitato a ispirargli un sentimento d'amore. Evidentemente, però, il divino mi riservava un'altra missione perché quell'ufficiale era già sposato. Quando mi sono convinta che ad Arequipa non c'era un uomo che avrebbe potuto servire ai miei scopi, sono stata costretta ad abbandonare il mio progetto. Tuttavia, mi restava ancora una speranza alla quale mi sono aggrappata: andare a Lima. Ho annunciato allo zio e a tutta la famiglia che volevo partire per la Francia e che mi sarei imbarcata a Lima perché desideravo conoscere la capitale del Perù. La notizia ha sorpreso tutti e lo zio mi è apparso molto colpito. Ha insistito per distogliermi dal mio proposito, ma non mi ha offerto in alternativa una posizione più indipendente di quella di cui godevo. Althaus era molto addolorato, sua moglie era disperata, ma le due persone della famiglia che hanno provato più dispiacere per la mia partenza sono stati Emmanuel e Carmen. Con tristezza sincera, Carmen mi ripeteva: «Nessuno soffrirà più di me della vostra assenza». Don Pio è assorbito dagli affari politici, Althaus, anche se vi ama molto, è distratto dalle sue varie occupazioni, Manuela lo è dai rapporti sociali e dai vestiti, Emanuele è assorbito dai piaceri della sua età, ma a me, che vivo ritirata e sconosciuta persino alla mia famiglia, Chi ridarà le consolazioni della vostra dolce ed elevata filosofia? Chi potrà regalarmi quei momenti di allegria dovuti alla vostra indole fuori dal comune, il cui incanto ravvivava la mia triste esistenza? Ah, Florita, non passerà giorno senza che io sospiri pensando a voi con rimpianto. Provavo pena a lasciare mia cugina Carmen. Gli altri non avevano bisogno di me, ma per lei ero diventata una compagna indispensabile. Lo zio mi ha pregata di aspettare a partire per vedere che piega avrebbero preso gli avvenimenti politici e io ho acconsentito. A forza di soldi e di fanfaronate sul suo giornale, il monaco era riuscito a organizzare i seguenti corpi: fanteria 1000 uomini, cavalleria 800 uomini, battaglione di immortali formato dal fiore della gioventù di Arequipa 78 uomini, chacareros, cioè uomini dei campi della periferia 300 uomini. Totale dell'esercito 2.178 uomini. C'era anche una guardia nazionale formata da 300 o 400 veterani e destinata alla difesa della città. Per darsi l'aria di un guerriero, il generale Nieto aveva creato un campo, facendo uscire i soldati dalle caserme e gli pensava di abituarli alla fatica. Il campo, situato a una lega da Arequipa, vicino a un villaggio, si trovava in un luogo non indicato dal punto di vista militare perché aveva il grave inconveniente di essere circondato da cicerias, delle specie di osterie dove si vende la cicia, la bevanda alcolica fatta di mais macinato messo a fermentare. Dove non ci sono i mulini, le donne masticano il mais e lo sputano in un vaso dove lo fanno fermentare. Altaus aveva cercato di dissuadere Nieto dall'insediare il campo in quel posto e gli aveva fatto osservare i pericoli per la salute dei soldati nella stagione delle piogge e le spese enormi che ne sarebbero risultate, ma il presuntuoso generale aveva disdegnato le considerazioni e i saggi consigli del suo capo di stato maggiore. Con quest'immagine guerresca Nieto ambiva a far colpo e voleva sembrare un grande capitano. Cedeva anche alla sciocca vanità di far mostra del suo potere in mezzo alle tende nella cerchia di ufficiali. Il generale amava farsi vedere con un brillante stato maggiore al seguito con il quale andava e veniva dalla città al campo e dal campo alla città. Noi trovavamo divertente la commedia giornaliera di quell'eroica cavalcata. Il generale montava un bel cavallo nero e con le sue uniformi ricercate e sfarzose si dava aria da Murat. Baldivia era spesso vestito da monaco e sul suo cavallo bianco impersonava un Lafayette peruviano. Gli ufficiali, coperti d'oro e carichi di pennacchi, erano altrettanto ridicoli. Grazie ad Altaus e alla gentilezza del generale, disponevo di un cavallo per andare a vedere l'accampamento. I borghesi erano stati costretti a consegnare i cavalli o a nasconderli per sottrarli alla requisizione. Solo mio zio aveva tenuto la sua giumenta cilena, perché era così focosa che in mezzo a un corpo di cavalleria avrebbe potuto creare incidenti e nessun ufficiale si sognava di montarla. La visita al campo era la mia passeggiata preferita e ci andavo alternativamente con mio zio, con Altaus o con Emmanuel, che era diventato ufficiale. Il generale mi accoglieva sempre molto bene, il monaco invece sembrava indovinare il disprezzo che mi ispirava. Appena mi vedeva, la sua fisionomia falsa, odiosa e sfrontata prendeva un'espressione molto particolare e mi sembrava evidente che indovinasse l'antipatia che provavo per lui. Mi salutava con freddezza gentile, ascoltava con attenzione tutto quello che dicevo senza aver l'aria di essere interessato e senza intervenire mai nella conversazione. Io sapevo da Emmanuel che le mie visite al campo non erano gradite e che le mie risate con Altaus dispiacevano molto a quei signori, ma come avrei potuto non ridere alla vista di quei ridicoli ufficiali? Per i 1800 uomini che doveva accampare, i chacareros e gli immortali non facevano parte del campo? Nieto aveva utilizzato un terreno più grande di quello che avrebbe usato un generale europeo per accamparne 50.000. Su di un monticello era stata costruita una ridotta dotata di cinque piccoli cannoni da montagna. Era la prima volta che li vedevo e mi sembravano tubi di grondaia. La fanteria, accampata in diverse file vicino alla ridotta, aveva un'aria misera. Gli sfortunati soldati dormivano sotto piccole tende malferme, fatte di un tessuto sottile che non li proteggeva dalle frequenti piogge. La cavalleria, comandata dal colonnello Carrillo e collocata sull'altro lato della ridotta, occupava uno spazio molto più grande e il generale mi faceva sempre galoppare davanti alla lunga fila dei cavalli, molto distanziati fra di loro. Nel quartiere della fanteria tutto era squallido. Dietro alle tende erano accampate le Ravanas con tutto l'armamentario della cucina e con i bambini. Si vedeva della biancheria stesa ad asciugare, alcune donne erano occupate a lavare, altre a cucire, tutte facevano baccano con grida, canti e discussioni. Le Ravanas sono le vivandiere dell'America del Sud. In Perù ogni soldato porta con sé tutte quelle che vuole, alcuni ne hanno anche quattro. Esse formano una truppa considerevole. Precedono l'esercito di molte ore per avere il tempo di procurarsi viveri, di cucinarli e di preparare l'alloggio per i soldati. La partenza di questa avanguardia femminile dà l'idea della vita di pericoli e di fatiche che le povere donne devono sopportare. Esse caricano sui muli le marmitte, le tende e tutto il bagaglio e portano con sé una moltitudine di bambini di ogni età. Fanno partire i muli al gran trotto e li seguono correndo e superano alte montagne coperte di neve, traversano a nuoto i fiumi, portando sul dorso uno o due bambini, e quando arrivano nel luogo stabilito, esse si preoccupano di scegliere il posto migliore per montare il campo. Poi scaricano i muli, montano le tende, allattano i bambini, li mettono a dormire, accendono il fuoco e si mettono a cucinare. Se sono vicino al luogo abitato, un loro gruppo va a fare provviste. Si lanciano sul villaggio come delle bestie affamate, domandano dei viveri per l'esercito. Se gli abitanti glieli danno, esse non fanno alcun male, ma se i residenti oppongono un rifiuto, si battono come delle leonesse e grazie al loro feroce coraggio hanno sempre la meglio. Depredano, saccheggiano, poi portano il bottino al campo e lo dividono fra di loro. Queste donne che provvedono ai bisogni dei soldati, che lavano e rammendano i loro vestiti, hanno come sola paga il permesso di rubare impunemente. Sono di razze di lingua india e non conoscono una parola di spagnolo. Non sono sposate e non appartengono ad alcuno. Sono di chi le vuole. Vivono fuori dalla società, mangiano con i soldati, si fermano negli stessi posti, sono esposte agli stessi pericoli e sopportano fatiche più grandi. Quando l'esercito è in marcia, la sua sussistenza dipende quasi sempre dal coraggio di queste donne che lo precedono di 4 o 5 ore. Se si pensa che, oltre alla fatica e ai pericoli che affrontano, esse hanno anche il peso della maternità, ci si chiede come fanno a resistere. È degno di nota il fatto che, mentre gli indios preferiscono uccidersi piuttosto che fare il soldato, queste donne scelgono volontariamente la vita che fanno, ne sopportano le fatiche, affrontano i pericoli con un coraggio di cui gli uomini della loro razza non sono capaci. Esiste forse una prova più evidente della superiorità della donna presso i popoli primitivi? E non sarebbe lo stesso nelle civiltà più avanzate se ai due sessi fosse data la stessa educazione? Speriamo che venga il giorno in cui questo esperimento sarà tentato. Molti generali hanno giustamente cercato di impedire alle Ravanas di seguire l'esercito, sostituendo il loro servizio, ma i soldati si sono sempre ribellati a ogni tentativo di questo genere. La loro fiducia nella capacità dell'amministrazione militare di provvedere ai loro bisogni non era tale da farli rinunciare alle Ravanas. Queste donne sono molto brutte e questo è comprensibile, data la natura delle fatiche che devono affrontare. Sono sottoposte agli estremi del clima e passano dal calore bruciante del sole della pampa al freddo delle gelide vette delle cordigliere. Per questo hanno la pelle bruciata e screpolata, le palpebre rovesciate e iniettate di sangue. Solo i denti sono bianchissimi. Indossano una piccola gonna di lana che arriva a malapena al ginocchio e una pelle di montone con un buco al centro per far passare la testa. Vanno a piedi scalzi, con le braccia e la testa scoperte. Fra di loro regna un discreto accordo, anche se a volte ci sono delle scenate di gelosia che si concludono con l'omicidio. Ma questi fatti non devono sorprendere, dato che le passioni di queste donne non sono trattenute da alcun freno. Non c'è dubbio che fra uomini che conducessero la stessa vita e non dovessero sottostare ad alcuna regola morale, gli assassini sarebbero molto più frequenti. Le Ravanas adorano il sole, ma non seguono alcuna pratica religiosa. Il quartier generale, insediato nella casa di un certo signor Menao, era stato trasformato in casa da gioco. La grande sala in basso, divisa in due da una tenda, alloggiava da una parte il generale e gli ufficiali superiori e dall'altra i sottufficiali, ognuno dei quali giocava a faraone delle somme enormi. Althaus, che voleva farmi vedere gli ufficiali della Repubblica nel loro momento migliore, mi ha portata alle 11 di sera a casa di Menau. Senza essere scorti, ci siamo messi a guardare dalla finestra. Che spettacolo offriva la compagnia! Abbiamo visto Nieto, Carrillo, Morin, Rivero e Ross seduti attorno a un tavolo con le carte in mano e un mucchio d'oro davanti. La tavola era piena di bottiglie, di bicchieri colmi di vino e di liquori, e la faccia dei presenti esprimeva la più violenta passione per il gioco, la rabbia, la cupidigia che nulla può saziare e che anzi è accresciuta dal cibo di cui si nutre. La luce livida che attraversava la coltre di fumo prodotta dai sigari che tutti avevano in bocca dava a quelle fisionomie qualcosa di infernale. Il monaco passeggiava su e giù a passi lenti e ogni tanto si fermava davanti a quegli uomini con le braccia incrociate. Sembrava dire: che cosa posso aspettarmi da simili individui? Per l'espressione del volto, la lunga veste nera e il luogo in cui si trovava, sembrava il genio del male, indignato per i vizi che costituivano un ostacolo al progresso della sua carriera criminale. I muscoli del viso erano orribilmente contratti, i piccoli occhi neri gettavano cupe fiammate, il labbro superiore esprimeva disprezzo e superbia, prima di riprendere, apparentemente rassegnato, la sua impassibilità. Siamo rimasti a lungo a contemplare quella scena e nessuno ci ha visti. Gli schiavi in servizio dormivano e i valorosi difensori della patria erano immersi nel gioco, mentre il monaco lo era nei suoi pensieri. Sulla via del ritorno, Althaus e io abbiamo parlato delle sfortune di un paese in balia di simili capi. Negli ultimi giorni di marzo è giunta la notizia da Lima che il presidente Orbegoso stava per venire ad Arequipa a prendere il comando dell'esercito. Essa ha fatto disperare Nieto, che diceva che il presidente veniva a togliergli la gloria dello scontro con San Román. Per prevenire quello che considerava un affronto, il presuntuoso generale, che non osava ribellarsi apertamente e che non aveva abbastanza influenza per proporsi come capo di partito indipendente, ha fatto ricorso a un mezzo che era alla sua portata. In gran segreto, ha fatto scrivere una lettera confidenziale a non so chi, facendo in modo che finisse nelle mani di San Román. Nella lettera si diceva che l'esercito di Nieto era privo di mezzi, senza armi, senza munizioni e incapace di difendersi. Dopo l'invio della sua missiva, il generale sperava ogni giorno di vedere arrivare l'esercito nemico e la sua impazienza era alle stelle. Da 3 mesi l'attacco del famoso San Román ad Arequipa era oggetto di tutte le conversazioni. Nei primi 2 mesi il nome di questo capo aveva prodotto sulla popolazione lo stesso effetto del nome di Croque-Mitaine sull'immaginazione dei bambini. I partigiani di Orbegoso lo dipingevano come un uomo cattivo, feroce, capace di sgozzare con le sue mani per il proprio piacere i poveri arechipegni e di mettere la loro città a ferro e fuoco per soddisfare la sete di vendetta del suo partito. Su di lui si dicevano mille altre amenità del genere. Se fra la gente ci si divertiva a raccontare delle cose su San Román con lo scopo di farsi paura a vicenda, e per la tendenza all'esagerazione e al meraviglioso che spinge questo popolo verso gli estremi, c'erano anche persone come il monaco, il generale, i loro subordinati e altri, fortemente interessate ad accreditare queste voci. Le speranze dei due partiti erano riposte nell'esercito da cui si sentivano difesi. Entrambi si sarebbero giocati il tutto per tutto in un solo colpo. La vittoria assicurava al partito vincente un successo completo, la sconfitta una rovina irreparabile. Il partito di Orbegoso, annientato su tutti i fronti, non aveva altro appoggio oltre al valore degli arechipegni, sui quali erano appuntati tutti gli sguardi. La signora Gamarra, dal canto suo, sentiva che l'autorità del governo che aveva formato non avrebbe potuto sopravvivere fino a quando ci fosse stata una resistenza armata e che per essere padrona a Lima occorreva che lo fosse prima ad Arequipa. Se con i 3 battaglioni che le restavano avesse sottomesso la città, Orbegoso non avrebbe più ostacolato il suo ritorno nella capitale. Si può capire quanto fosse importante per i capi dell'esercito di Arequipa, per le autorità cittadine e per le persone che avevano interesse a sostenere Orbegoso, coltivare nel popolo idee esagerate delle sventure a cui le avrebbe condotte il trionfo di San Román, per spingerle a difendersi fino all'ultimo. Così Ogni giorno si facevano circolare delle lettere non firmate, scritte a mano dal monaco, nelle quali si diceva che San Romain aveva promesso il sacco della città ai suoi uomini. La descrizione dei massacri, degli stupri, delle atrocità che questi scritti contenevano facevano sorgere nell'animo timido degli abitanti un terrore che andava fino alla disperazione. Il monaco raggiungeva così il suo scopo, perché la disperazione dà coraggio anche al più vile. Il generale arringava i soldati, il prefetto e il sindaco lanciavano i loro proclami con lo stesso spirito. I monaci dei diversi conventi, cedendo alla forza degli eventi, predicavano nelle chiese la resistenza fino alla morte.